Monica Maggioni, pronto, ci sei? Pronto, eccomi. Eccoci, che ha presentato a Venezia il documentario World 54. Il titolo fa riferimento a un luogo. Sì, fa riferimento al braccio psichiatrico dell'ospedale dei veterani di Washington, Walter Reed, e World 54 è esattamente il numero di quel reparto. Tu segui da vicino, io ho visto il documentario, la storia di un soldato che dopo la guerra in Iraq è tornato, ha avuto problemi di reinserimento, ha tentato il suicidio ed ha avuto un rapporto complesso e negativo con le forze armate. Beh, diciamo che il problema grosso di Chris è stato che, Chris è il nome del protagonista, è stato che lui ha un record, quindi una scheda perfetta per quella che è stata la sua attività in guerra, quindi si è comportato come gli veniva richiesto. Il problema è che Chris in guerra ha visto delle cose che hanno cambiato per sempre la sua vita, la sua psiche, il suo modo di vedere le cose, ed è rimasto traumatizzato. Questo trauma ha fatto sì che al suo ritorno iniziasse ad avere sintomi di depressione fortissima, ha avuto per molti mesi una serie di episodi di alcolismo vero e proprio, e quando ha chiesto di congedarsi perché ne aveva diritto a quel punto, di tutta risposta gli è arrivata una scheda che gli diceva che doveva ripartire per l'Iraq, perché questo è accaduto anche in questi anni. È accaduto che anche persone che ormai tecnicamente per il numero di giorni passati in servizio potevano chiedere il congedo, si sono visti negare il congedo e come dire, si sono ritrovati l'obbligo alla ripartenza. A questo punto Chris ha fatto di tutto per cercare di non ripartire e quando ha capito che non ci sarebbe stato niente da fare, il giorno di Memorial Day ha tentato il suicidio. Questa è l'unica pecca nel curriculum militare di Chris Goldsmith, e lo dico apposta sottolineandolo, perché per questo viene punito, nel senso che invece di avere un congedo con onore gli danno un congedo di diverso tipo, che è un congedo che non gli permette di avere i benefits per andare al college. Chris non si può permettere il college, tra parentesi è orfano di padre, deve lavorare, il college in America costa moltissimo e non se lo può permettere, lui vuole fare il medico per i veterani, ma se non otterrà il congedo con onore non potrà fare il college. E questa è la sua storia. Gli episodi a cui facevi riferimento sono relativi all'uccisione di civili disarmati per lo più? No, assolutamente, non c'entra assolutamente niente con questo. La storia di Chris è il fatto di trovare una fossa comune ed essere costretto a fotografare questa fossa comune da vicinissimo. Sì. La sua esposizione con la morte è la presenza di questi cadaveri, lui vede in faccia che cosa fa la guerra agli uomini aprendo quella fossa comune, e quella fossa comune diventa la dimensione del suo incubo. Sì. Il suo incubo quindi è esattamente quello. L'episodio a cui facevi riferimento tu, e non è di civili ma di soldati iracheni, è l'episodio legato a Jeffrey Lucey, che è il marine che si è suicidato. Jeffrey dice di avere ucciso due soldati iracheni. Sì. Tant'è vero che ha portato via a questi due soldati le targhette, sai, dog tag, la sì, targhetta che tutti i soldati portano al collo, e sono quelli che oggi porta sua madre. Oggi sua madre al collo ne ha tre, una è quella di suo figlio e due sono quelle degli iracheni. Per l'esercito la presenza di questi veterani con disturbi dovuti al trauma da conflitto rappresentano una vergogna, e quanto tale è una realtà. Rappresentano soprattutto un problema economico gigantesco e rappresentano una cattiva pubblicità rispetto al fatto che altri debbano arruolarsi o comunque servano grandi numeri di persone che poi vanno al fronte, quindi l'elemento della vergogna c'è, sussiste, ma non è più economico. Però chiaramente la chiave di lettura, certo, tragicamente, certo, la chiave di lettura di questa storia è economica, e quindi c'è anche la necessità, soldi a sufficienza per fare la guerra ma non soldi a sufficienza per curare quelli che tornano devastati dalla guerra. Certo, e comunque è una realtà che va tenuta nascosta. È una realtà di cui non si parla, ma sai, va tenuta nascosta, implica, no, qualcosa di attivo. Invece di fatto, perché poi io non è che nel momento in cui ho cercato di andare a fondo a queste storie mi sono trovata qualcuno che mi ha detto non farlo. Sì, quindi sì, di fatto si può fare, però il mainstream, no, la tendenza generale è a tenerle molto sottotono. Monica, com'è venuta l'idea e come sei entrata in contatto con questa realtà? Guarda, sai, io rispetto a questo tipo di storie ho ormai una sorta di attenzione / deformazione, perché dopo tutti gli anni passati a coprire le guerre, in particolare la guerra in Iraq, è chiaro che tutto quello che riguarda in qualche misura questa guerra suscita la mia attenzione. Solo che poi nel 2008, quando sono partita per seguire la campagna elettorale di Obama, ho iniziato a leggere qualche pezzo che appariva qua e là sui quotidiani, di storie di veterani che avevano giganteschi problemi di tipo psichiatrico e tutto il resto, e a quel punto ho iniziato a scavare meglio dentro questa storia, mi sono trovata di fronte a numeri e realtà inquietanti. Ecco, uno dei dati che riporti nel documentario e che è appunto inquietante è che da quando è cominciata la guerra il numero dei soldati che si sono suicidati è superiore alle vittime sul campo. In particolare il dato è che nel 2009 sono morti più soldati per suicidio che in battaglia. E credo che sia uno di quei dati che parla da solo, nel senso, faccio quasi fatica a commentarlo perché dà l'idea del problema. C'è una guerra non vista, c'è una guerra che continua a casa. Infatti l'altro titolo, che fino all'ultimo momento avrebbe potuto essere il titolo del film invece di War 54, era Lost at Home, cioè chi si perde tornando a casa. Senti, nel tuo lavoro c'è anche l'opinione di alcuni, il parere di alcuni psicologi rispetto ai casi. Certo. Ci sono degli psichiatri, c'è cioè in particolare Jonathan Shay, che è considerato il guru di questo tipo di problemi. Shay ha scritto 3 libri, tra cui Achille in Vietnam, e è un super esperto, uno scienziato che studia questo tipo di problematiche connesse alla guerra, all'esperienza della guerra e l'impatto psicologico che ha sull'essere umano fin dall'epoca del Vietnam. Quindi siamo a cercare, come dire, i pareri e le storie più autorevoli per raccontare questa storia. Monica, che percorso seguirà adesso il tuo lavoro dopo la presenza a Venezia? Guarda, penso che faremo una serata a Roma, stiamo parlando di una serata a Roma probabilmente in ottobre, poi andrà in onda dentro speciale TG1, perché abbiamo anche quest'estate abbiamo cercato di riguadagnare uno spazio per i documentari, perché è pazzesco che in questo paese che ha prodotto documentari straordinari non si riesca a dare abbastanza attenzione al documentario, non ci siano spazi anche televisivi, già non ci sono le sale, non ci siano spazi almeno televisivi anche per il documentario. Quest'estate ne abbiamo messi in onda una serie di 10 in questa collaborazione tra Speciale TG1 e Rai Cinema, e le persone li hanno guardate in tanti, quindi insomma mi sembra ancora una volta un alibi quello di dire che poi i documentari, certo, non funzionano in quindi più, l'interesse, quindi continueremo anche c'è. D'inverno. Sì. Sì, quindi l'interesse c'è. Bene, certo. Allora, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, Crepi, grazie. Un abbraccio, ciao Monica.